mi sembra che in questa sede, soprattutto da alcuni punti di intervento, si sia un po' indignato contro la politica, comunque seppur non si sia individuato, comunque riconosciuto nella politica un possibile strumento di cambiamento, appunto è prevalso questo sentire, questa cosa, no, che tra l'altro ho aperto anch'io, che è una sorta di preoccupazione su come e quanto poi la politica sia in grado di incidere su dei cambiamenti, delle trasformazioni che non sono, che non siano solo di facciata, ma siano anche soprattutto delle trasformazioni reali. E un po' quello che sta succedendo in questo territorio è questo, è un territorio che, come è stato ripreso a più voci, si sta muovendo, no, tra spinte globali e spinte locali, molto poco locali, molto invece globali. In particolare ci sono grandi infrastrutture che minacciano un po' l'assetto attuale, ma soprattutto poi ci sono, ci sono, oltre a queste cose importanti, imponenti, preoccupanti, c'è anche tutto un discorso legato alla crisi economica di questo territorio, che era basato poi fondamentalmente sulla grande industria, e tutti questi ragionamenti legati all'economia, tutti questi fatti che sono un po' legati all'economia di questo territorio, un territorio che ha, che è il secondo dopo Milano ad avere il territorio più esteso all'interno della provincia di Milano, non tanto per copertura, no? Cioè per l'utilizzo del suolo, ma proprio per dotazione di aree verdi, aree agricole. Chi vive qui e chi cerca di fare politica qui, e chi magari è venuto a vivere da Milano in questi territori, si chiede come si debba comportare di fronte a queste spinte, cioè da una parte la crisi economica di queste grandi fabbriche e dall'altra il discorso, appunto, dello sviluppo economico di questi territori, che dipende, secondo, diciamo, modelli dominanti dalle infrastrutture. Cioè se un territorio è accessibile, allora è anche appetibile per le attività industriali. E qui, dentro tutto questo, ti ha caduto la friggitrice? Sì. Come no? Questa luce da Tramonti. Lì c'è la cosa. Che dico? Dentro tutto questo ci stanno i colletti, ci stanno gli agricoltori locali, e ci sta questo momento particolare, che è un momento di incontro, di confronto, di ragionamento su dei temi che è importante, per cui qualcuno qui prima faceva accenno all'importanza di questo momento. Io credo che questo momento sia importante innanzitutto perché, rispetto alle trasformazioni globali che poco, diciamo, singoli soggetti come per esempio non possono governare, in realtà noi qua dentro, in questa sede, seppur in una scala molto ridotta, ci stiamo confrontando e ci stiamo mettendo a ragionare. Io vedo questo, io se oggi, insomma, ascoltandomi, attraversando questo luogo comune, non inteso come luogo comune, ma proprio una sorta di rifondazione di un luogo come questo, che fa anche cenno a una tradizione che avete grosso, questo era il circolo dei contadini, no? Per cui da una parte con una certa, diciamo, delicatezza si è ripreso un pezzo della nostra storia, dall'altra invece si sta ragionando con soggetti che stanno provando a rifondare un concetto, un nuovo modo di pensare l'agricoltura locale, e con altri invece che stanno provando comunque a rimettere in discussione a un livello magari culturale tutto il discorso che è legato ai modelli di sviluppo. Allora, quello che ho percepito oggi è che c'è una grande potenza, c'è una grande energia, e che però è un'energia, insomma, che se effettivamente messa dentro la politica, o nel momento in cui, quale politica, cioè mi rifaccio politica, forse la politica che si intendeva oggi era appunto la politica legata alla protezione territoriale, alle istituzioni, all'amministrazione. Ecco, se messa a contatto e creato un contatto con la politica, non so, credo che sia preoccupante, comunque io avverto questa preoccupazione, cioè la preoccupazione per cui tutta questa forza, tutta questa energia dirompente, basata poi su alcune cose che dirò, che fa tremare la terra, no? Per cui quando Pino diceva prima l'agricoltura è morta, io direi sì, va bene, l'agricoltura è morta, ma la terra trema, per cui è viva, no? Allora, la terra trema è viva e credo che si siano fatte tremare anche delle parole oggi, no? Per cui le parole come sviluppo, la parola come agricoltura si è fatta un po' tremare, la parola come società, la parola come comunità, la parola come stile di vita. Cioè io credo che continuare a far tremare queste parole e quindi dargli questa carica eversiva che diversi all'interno del loro intervento dicevano, all'interno della politica sia una sfida, insomma, importante che ci richiede una sorta di, non so, di impegno, di sforzo, di costanza e di attenzione. La preoccupazione la vedo nel senso che qua dove dei grassi viviamo dei processi interessanti. Quello mosso e promosso dal colletto è uno e ha delle caratteristiche ben precise che sono basate sull'auto, no? Cioè sull'autodeterminazione, sull'autoproduzione, sull'autodistruzione e riposiziona l'importanza e la possibilità dei soggetti, la possibilità di cambiare all'interno dei soggetti, no? Come Paolo, come Laura, come Riccardo, come Nicolò, ma come anche Dario e Renata. E ci sono altri processi molto, molto simili, molto analoghi, no? Allora vi cito come esempio le città slow, vi cito come esempio Abbiate Gusto, che è questa fiera enogastronomica che viene fatta da Abbiate Grasso. Allora, che differenza c'è tra queste due cose? No? C'è la differenza che un momento come questo fa veramente tremare la terra, fa veramente tremare le parole e ti mette in discussione dei modelli e dei processi di sviluppo. Momenti come Abbiate Gusto sono momenti che non rimettono in discussione niente. E seppur all'interno di questi processi ci sia una potenzialità di cambiamento e una potenzialità anche di crescita per questa città, questo non avviene perché, e soprattutto questo non avviene e non ha delle ricadute sulla marginalità, per cui esiste sempre una marginalità che rimane fuori da questi processi. E sono processi che riproducono invece delle logiche vecchie, no? Meno liberiste, per cui ci sono tanti che guadagnano da questa cosa e ci sono molti invece che o prendono le briciole di questi processi oppure manco le sfiorano. Allora io quello che mi sembra che riesca a fare nel piccolo questa esperienza sia proprio questa di avere un carattere eversivo dirompente, ma che soprattutto fa dialogare non pochi, no? Seppur si tratta ancora di una scala molto piccola, di una scala molto poco incisiva, ma fa dialogare molti e una pluralità di teste, di persone di intelligenze. E quindi oltre al tremare delle parole mi sembra che tremino anche dei valori, no? Che richiamava prima Nicolò. E questo mi sembra una roba importante, no? Che mette in discussione anche dei concetti di sviluppo di società. Quando parlavo prima di crescita, chiudo con questo, faccio solo un appunto. Mi sembra che appunto la crescita oggi sia vincolata a una maggioranza tiranna, cioè che appunto la politica fa gli interessi di una maggioranza, ma in realtà fa gli interessi di pochi, di una maggioranza che non riflette abbastanza sul futuro e sulla speranza, no? di produrre qualcosa di diverso e di non riprodurre le stesse contraddizioni, le stesse differenze sociali che ci sono attualmente, non vanno a riflettere sulle contraddizioni di un modello di sviluppo. E mi sono persa, che volevo dire. No, a parte la maggioranza di anni, non so, riprendo da un'altra parte, stavo parlando della politica, della possibilità di cambiamento e di sviluppo. Nicola prima mi cita la storia di come si chiama l'autore che è nominato? Don Bonvisin della Riva, e diceva Bonvisin della Riva parla della storia della rosa e della viola. la rosa che vince sempre sulla viola, e la rosa rappresenta un po' la nobiltà, la borghesia, l'aristocrazia, che prevale sempre sulla viola. E perché no? Perché la rosa guarda verso l'alto, perché la rosa è bella, perché la rosa è pungente, perché la rosa riesce a prevalere sul resto, mentre la viola è un fiore bello tanto quanto la rosa, che è però ha questa diversità che piuttosto che guardare in alto è molto più vicina alla terra, no? Allora io penso che la politica debba essere un po' così, che la politica deve essere autoreferenziale, guarda e vaga gli interessi della maggioranza e non guarda con attenzione a questi piccoli processi di cambiamento di disponibilità. Io quello che vorrei, che mi piacerebbe fare, che desidero, è che questi momenti che sono stati anche attraversati, no, da tanta gente oggi, possano incidere sulla politica, cioè aprire ancora la politica e creare dei processi di disponibilità. Per fare questo, penso che soprattutto noi politici non dobbiamo avere questo approccio preferenziale, non possiamo neanche pensare a un tipo di pianificazione territoriale che pianifica tutto, che sia onnicomprensiva, che guardi agli interessi economici dominanti, ma deve essere un approccio leggero, dolce, forse proprio come quello della viola, che guarda la terra, che guarda al basso e appunto sia aperta, sia flessibile soprattutto a questo tipo di emergenze o risorgenze sociali.